Would you like to hear something that's a little more modern than the one we just did? All right. This is an Italian song with a Spanish flavor. It's about a Spanish girl, and it's called Manuela. Mi han detto che la più bella di Barcellona l'han visto gettar lo scialle giù nell'arena. Ah, da quando l'ha messo in vena la catalana la sua chitarra al chiar di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa amoresca tu stai così sola, tu sola. Ricevi sorrisi e rispondi con una parola, amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela. And then again.